E chi vuoi che sia il maniaco? Eh? Era rimasto acceso Antonello. Oggi era entrato Giulio e Claudio, hanno fatto una chiacchierazzina, Claudio era stanco perché stava facendo roba. E così, era rimasto acceso. Zappa. Io mi sono fatto un giro al centro studi, come si pigliato dove stava e poi sono salito a casa. A verità. Sono stato 5 minuti fa nemmeno. Poi sono andato a sera in giro oggi a fare commissioni, mamma mia. Poi c'era da mangiare in Piazza Castello, no? Tutto. Ho sentito quando sono andato in banca venerdì, odore di carne arrosto, mamma di turchi. Allora, in realtà non ho visto niente io, anche perché sono neanche andato, figurati tu, era a casa, quindi figurati, c'erano odori di carne arrosto, a quest'ora sei rimasto lì, ma sei venuto qua, no? Sì, c'erano vari stand di panini, di salsiccia, carne arrosto, sicuramente anche qualcosa da bere, forse c'era anche la birra sarda, quella fatta in Sardegna, sai, artigianalmente. Una volta ne ho assaggiato una all'emiciclo di queste birre sarde, ma era molto buona, molto bella corposa, non acqua come certe birre in bottiglia, era buonissima. Meglio così era ora. Aiaia. Mi stavo dannando l'anima per trovare due musiche, due canzoni non cantate, solo strumentali, non riesco a trovarle. Il disco non lo trovo in vendita, non c'è il disco in vendita con la colonna sonora di certe cose. Ah, è un'ora buona. Adesso controllo meglio, se me lo posso ordinare me lo ordino. Il colmo è a comprare CD, eh? Colmo è come un avvelo. Mi sembra che c'è qualcun altro poco faccia davanti, che vuole entrare. Sparito. Poi dovrebbe essere in giro cosa a me. Con quell'aggeggio, stasera parte a Olds da Padottori che va a Genova, Franco di Sorso. Franco di Sorso. Eia. E quindi sentiamo su 14 di là. Ah, ma per lavoro, per divertimento, per parenti, per Natale? Non lo so per cosa andiamo così a vita. E tu dici che arriva stasera e partiva stasera, mi ha detto. A dove ci chiamava e basta. Ma là, con Google, ma Mindland Talk, purtroppo io non l'ho acceso perché o sto lì o sto qui, non posso gestire le cose, poi vabbè c'è questa diatriba, purtroppo sempre separati, chi in PMR, chi la 23, chi qua, chi in Civitalk, vabbè, pazienza. No, Civitalk lui ha detto che entra, e che fa compagnia, mi ha detto. Eia. Si può provare domani domenica, mamma mia, è che mi sveglierò tardi, porca miseria. Mi conosco già. Oh, mi sono messo un film alle 9. Dopo 5 minuti mi ero già rotto le scatole, non avevo voglia di seguire quel tipo di film, non abbia gana. Ma che non riesco a trovare in tutta la rete due canzoni, non si sa chi le fa, non si sa chi è l'autore, ma le troverò prima o poi, a costo di estrarle dal film. Perché quando tu c'è il film, la colonna sonora, io so che ci sono dei programmi per estrarre una certa canzone, a malagana, convertirla in MP3, e che ci ho perso lo smalto a fare queste cose. Una volta, mamma mia, c'avevo un bel programmi, adesso sto invecchiando anch'io. Perché lo sai Calogna, come mette? A un certo punto. Meglio. Sento l'audio. Sto baracchino in particolare perché, come dire, anche se non è l'autoascolto attivato, soffio, sento nell'altoparlante, sento il soffio, con momenti amplificati tende a innescare, perché c'è una sorta di piccola, di piccolo comunque, non è un rientro ref, è fatto così proprio il baracchino, capito? Senti appena appena nell'altoparlante, quando metti l'amplificato calzi il volume, se lo tira dentro e fa l'effetto Larsen. Ho capito, aspetta un secondo, rientro subito, 2 minuti. No, aspetta Antonio, io devo chiudere, dai, sono, mi sto zuffando al computer, devo trovare questa cosa, dai, già sentiremo. D'accordo, ok, va bene, non c'è problema. E ciao ciao, buona serata, ciao. Aspettato, ciao ciao.